inciso dentro il viso che ora tu mi dai. E non credo sia questo vento così indeciso a darvi tutta questa instabilità. Le meccaniche previsioni stellari ancora non siete riusciti a combinare o a rubare nei vostri desideri, ma perché non ve ne andate a passeggiare in centro? Gli elettori vi guardano poco in male, è tempo di riapparire un po'. Un grande evento spettacolare è quello che ci vuole, la casa offre da bere. Esotici provenienti da altre mare, sì, da un altro mare. E cibi esotici provenienti da altre mare, sì, da un altro mare. Sigarette, papà. Caramelle, mamma.